sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Leggevo pochi giorni fa la notizia dell'adeguamento delle tariffe SMS in Italia rispetto ai parametri europei, quindi probabilmente costeranno meno. Notizia probabilmente trascurabile, o perlomeno affogata tra le tante notizie che riguardano le spese, l'economia, il rapporto tra italiani e denaro. Ma questa nella sua fattispecie significa qualcosa di più. Significa una piacevole maniera per comunicare che una delle parti fondamentali delle relazioni degli italiani probabilmente costerà loro meno, sarà per loro più lieve. Quindi questa mattina vorrei dedicarla a l'individuare, il razionalizzare, il portare alla luce, il confessare il nostro rapporto viscerale con esso. E quindi vorrei parlare della nostra più potente, più insidiosa e più amata appendice emotiva. L'SMS inviato via telefono sta avviandosi ad essere la metrica per raccontare la contemporaneità. Il telefono cellulare è l'amplificatore dei sensi a cui nessuno sa più rinunciare. È un ricevitore e trasmettitore di frasi le cui parole sono tagliuzzate e violentate, ma per dire il più possibile nel minor spazio. Il cellulare è moderno supporto dell'antico fabbricar versi. Spesso un messaggio scritto è capace di scardinare ogni nostra cautela nei confronti del prossimo. La modalità tecnica di trasmissione è recentissima, mentre la forma scritta è arcaica e desueta, ma proprio per questo carica di un potere fascinatorio con cui siamo disabituati a misurarci. Molto spesso ci sorprende vulnerabili. So che non andrebbe mai fatto, anzi è la regola più ferrea di chi entra in uno studio radiofonico, quella naturalmente di tenere spento il telefono. Io questa mattina, una tantum, terrò il mio acceso. Lo tengo acceso come una sfida verso chi mi conosce, chi ha il mio numero. Pregherei di non chiamare, ma rendetevi conto, se voi chiamerete o manderete messaggi, ho messo un microfono sopra il telefono in viva voce, quindi sentiranno tutti quello che voi possiate dire, quindi non ve lo consiglio. Lo tengo aperto, mi piace tenere aperta, abbassare la saracinesca della mia protesi emotiva più potente questa mattina, perché il telefono cellulare, il telefono portatile, il nostro telefono individuale è molto più che un piccolo oggettino, uno status symbol. Ricordate, nei primi anni in cui si verificò l'avvento del cellulare, questo meraviglioso oggetto rappresentava il potere, rappresentava il potere d'acquisto, perché costano tantissimo. Ricordo ancora delle serate in dei teatri in cui delle signore burine, della buona borghesia catanese, mi sembra, un teatro di Catania, venivano con questa sorta di orzello da 6 kg sotto braccio, ostentando che c'era il ricevitore legato con un filo. Sembrava una cosa orribile, sembrava una radio da campo dei soldati americani nella liberazione di Roma nel 1944, qualcosa del genere, forse ho sbagliato data. Devo dire che in realtà col passare degli anni abbiamo visto tutta una serie di esternazioni di questo desiderio di avere un prolungamento, qualcosa che ci adeguasse ai ritmi del tempo rispetto alla nostra capacità di allacciare emozioni. Il cellulare da cintura, grande accessorio, tutti i miei colleghi alla RAI mi ricordo hanno dei grossi cellulari attaccati alla cintura, se no dei pistoloni, delle Colt sempre cariche, come se fosse una sfida quotidiana da fare con il mondo. Tirare fuori questa tecnologia che durava pochi minuti la carica, bisogna sempre rimetterlo in carica. E poi mi ricordo quando anche a me dotarono di un telefonino aziendale da cintura, non sapevo che farci perché non avevo i numeri di nessuno, avevo soltanto un numero che era quello della mia redazione, però non mi sembrava vero quando mi chiamavano in mezzo alla gente e tiravo fuori questo mammozzone dalla mia cintura, mi lasciava un bozzo sulla giacca, sembravo un mafioso che girava con il mitra sotto braccio. Passato col tempo è diventato un oggetto di uso comune, abbiamo un paio a testa, quindi non possiamo più dire che è una figata averci il cellulare, ma nemmeno averci gli ultimi modelli, quelli a palpazione vellicazione e avellicazione, ormai ce li hanno tutti, li fanno anche i cinesi a pochi soldi. Quindi vellicare il cellulare non è più rappresentare di avere un oggetto raro e prezioso. Oggi è qualcosa di più, oggi è un prolungamento della nostra potenzialità emotiva. Un telefono cellulare innanzitutto crea un luogo definibile e definito in cui rintracciare l'intimo della nostra persona e allo stesso tempo è un indicatore del senso di affezione, dell'amore, della considerazione o anche dell'odio, della trascuratezza che il mondo ha di noi. Se voi litigate con una persona, mettete caso, puro caso, un'esperienza che qualcuno può aver fatto anche da poco, c'è un giorno di guerra fredda con la vostra moglie e non vi parlate, il fatto che sia spento quel segnalatore della presenza della persona con cui avete diviso la vita e che ogni tanto si accende 10 volte al giorno per le più banali rotture di palle, beh, improvvisamente come se quella persona fosse morta, non esistesse più. E allo stesso tempo voi che coltivate probabilmente clandestine frequentazioni, sappiate quanto è importante tenere nascosto, clandestino, camuffato, artefatto il pulsare di quella persona che in realtà secondo le convenzioni e leggi non dovrebbe mai pulsare. Beh, se tutto questo vi risveglia qualcosa? 800 24 00 24. Quante oneste donne conosciamo sedotte da uomini rapaci che le hanno sommerse di SMS? Tra amici e colleghi di lavoro, quanti padri di famiglia abbiamo veduto arrovellarsi con accanimento sospetto in uno scambio di messaggini alieno al grigiore delle loro tempie? Non esiste più esperienza nelle cose d'amore, né tantomeno prudenza nel seguire la perdizione dei sensi di fronte al malandrino e sconvolgente messaggio breve. Guardate, oggi sconfinerò oltre tutti i limiti della comunicazione da me mai lambiti. Tengo anche aperta la pagina degli SMS che mandate a Radio 24. Non la guardo mai questa pagina perché sono 4 rancorosi beceri che scrivono sempre le stesse cose. Schifoso, sempre il solito filo berlusconiano, oppure schifoso, sempre il solito comunista, a seconda di come gli gira la mattinata. Quindi non ho mai dato gran peso agli SMS che arrivano a questa trasmissione, almeno personalmente, una mia scelta individuale. Probabilmente uno strumento formidabile per altri programmi. Beh, oggi tengo aperta questa pagina, in questo momento ancora ho gli ultimi messaggi dedicati a Giannino, ma se qualcuno volesse usare l'SMS, la trasmissione dedicata al telefono, alla sua possibilità di essere una periferica delle nostre emozioni, delle nostre relazioni, quante persone tenevate a mente, indirizzi, telefoni, riperibilità, soltanto una 15ina di anni fa? Beh, avevate delle agendine come tutte avevamo, ma migliore dei casi quelle agendine elettroniche si autocancellavano da sole quando si finivano le pile, che ogni tanto con difficoltà enormi alcuni più avanzati scaricavano sul proprio computer, se no giravamo con taccuini, block notes, post-it, foglietti scritti sulle mani. Al massimo ne potevamo tenere a mente una 50ina, ma non tutti i telefoni, 50 persone di cui avevamo scritto da qualche parte il loro telefono. Io ho ritrovato le mie agende quando lavoravo soltanto 15-20 anni fa, facciamo una 20ina di anni fa, già faccio questo mestiere, non c'è un cellulare, saranno 3-4 numeri di cellulare, sono tutti numeri di ufficio e di casa. Quindi la persona era legata alla propria reperibilità in un luogo fisico. Oggi la persona è legata al codice che individua l'essenza di questa persona. Il numero del vostro cellulare è molto di più che semplicemente un numero che è attribuibile a una società telefonica che vi ha dato un telefonino, una connessione e che pagate ogni settimana, ogni mese, ogni scheda prepagata, ogni volta che decidete di abbandonarvi all'eccesso del vostro strumento. Molto di più, è il vostro identificativo personale. Voi siete quel numero, voi siete soprattutto quelle poche parole, cifre, codice di riconoscimento che ognuno di noi ha collocato nell'agenda elettronica, il proprio telefonino, legata a quel numero. Mi si accende un numero ABCDFG, so che è una persona, è legata a una persona. Quella persona per me, nella mia emotività, nella mia mente, nell'immediatezza delle reazioni dei miei sensi, è legata a quella cifra, non tanto a quello che rappresenta come professione, come essere umano, come nome, cognome, soprannome, denominazione, dottore, commendatore e via dicendo. 160 battute che scardinano ogni baluardo della pudicizia femminile o della tenuta etica maschile, ma alla stessa maniera, in assenza di segnale, possono far precipitare chi attende nella più cupa depressione. In particolare, la macchina spara messaggi è martellante, instancabile e onnipresente. Non c'è momento della giornata in cui essa non possa fare pressione sulla sua vittima, vuoi per vendere, vuoi per consigliare, vuoi per chiedere. Con l'SMS si accendono storie, ma si interrompono illusioni senza l'imbarazzo nella voce. Si licenzia, si ferisce, si turlupina e si cerca il consenso, si tradisce. Basta comprimere il tutto nella lingua dei messaggini. Sicuramente farlo sembrerà più lieve. 800 24 0024 è il numero per parlare di numeri di telefono, il numero per parlare di SMS, è il numero di parlare di questa nostra improvvisa, repentina, inspiegabile capacità poetica di condensare in poche battute un pensiero, un'idea, un insulto, un concetto, un tentativo e un grimaldello di seduzione. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Allora, con l'SMS si smantella anche la lingua italiana, a dir la verità. Per fortuna ogni tanto si smantella, sennò parleremmo ancora poffare messere, come si parlava qualche secolo fa. Lei. Ma volevo ribadire un concetto che lei ha espresso prima, cioè il telefono come prolungamento. Io lavoro nell'ambito della telefonia mobile. Quindi è un allungatore di emozioni. Assolutamente, ma soprattutto un venditore di emozioni, perché il 90% delle mie vendite è fatta sull'oggetto e non sulla tariffa, quindi sul telefono fisico. Però io penso, sulla, sa perché? Sulla fisicità del telefono, cioè sulla qualità, sul modello, sulla tipologia, non tanto sul costo che poi questo oggetto determina. Perché secondo me è ormai considerato come un farmaco salvavita. Tutti danno per scontato che comunque i soldi per quel tipo di funzione li troveranno comunque, perché su tutto si taglia a meno che sui telefoni. Continuo a vedere persone che stanno ore al telefono alle fermate degli autobus, sulle panchine dei giardinetti, le stesse signore che si occupano dei miei bambini, le vedo passare giornate intere al telefonino e mi domando come farà una signora che fa la babysitter a poter stare ore al telefonino. Evidentemente di tutti i bisogni probabilmente quello a cui si fa meno caso è questa meravigliosa e fantomatica possibilità di avere un'espansione verso il mondo della propria emotività, quindi interessa poco quanto si spende. Questo va bene per lei, secondo me. Posso aggiungere una cosa? Certo. Allora, in questa società che è abbastanza frammentata, dove i contatti personali sono zero, dove si comunica con Twitter, Facebook, le varie chat room, il telefonino non è altro che uno dei tanti prolungamenti elettronici o tecnologici che ci permettono ancora di comunicare. Questo forse noi lo stiamo dimenticando. Quello dell'SMS, che è una cosa anche a volte molto pratica, però mi sembra nel suo uso, nelle sue abbreviazioni secche, TVTB eccetera eccetera eccetera, un massacrare una lingua che di suo ha una sua evoluzione sicuramente, ma a volte, come dire, è un po' troppo esasperato. Però guardi, alcune forme particolari di poesia, per esempio, ho visto scritto scolastico con la K. Sì, vabbè, ma penso che ormai con la K e TVB lo scrivono soltanto, non lo so, i bimbo minchia e poche altre persone, nessuno usa più quel linguaggio lì. È talmente ridicolo nell'esasperazione che ne è stata fatta dai primi luddisti che vedevano con orrore l'uso delle protesi elettroniche. Io sono convinto invece che oggi le emozioni passino attraverso questa tecnologia, non ci vedo nulla di scandaloso, sono relazioni con lo stesso spessore, lo stesso grado di intensità che le relazioni che scambiamo e abbiamo occasione di alimentare nel corso della nostra giornata quando vediamo le persone di viso. Non penso che queste connessioni siano qualcosa di limitativo rispetto alla possibilità di avere incontri con altre persone. Semplicemente un linguaggio di convenzioni diverse, ma anche l'haikuga, una forma di poesia sublime, è fatta di pochissimi versi fulminanti. Ogni poesia è un massacrare la lingua comune, ma lo trovo questo sia un bene. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno. Trovo molto interessante questa discussione. Volevo solo segnalare una cosa. Mi capita spesso, ahimè, un po' la consuetudine, un po' il tempo, di ritrovarmi nella memoria del telefonino dei numeri di persone che ormai non ci sono più e non riuscire a cancellarli. Accade anche a me, lo sa, io ho almeno 4-5 morti nel mio telefonino. magari perché è un po' una forma di, non si riesce a fare un taglio definitivo, cioè come se quella rimanesse anche la memoria non soltanto del telefono ma la memoria personale. O, per esempio, ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Cesare Garboli e io non riesco a cancellare i suoi numeri dalla memoria. Beh, io c'ho Iader Iacobelli che era un mio grande amico, ma ogni volta lo vedo non ho mai il coraggio di togliere il suo telefono. Franco Carlini, un altro mio amico morto, c'ho tanti amici che ancora stanno lì. Beh, una forma, è come una volta se ne ha la foto dell'amico scomparso nel portafoglio. Ma dirò di più, avendo oggi, diciamo, con il Bluetooth la possibilità ogni volta si rientra a casa di riallineare il proprio telefonino con la propria rubrica telefonica che sta nel computer e che è frutto di frequentazioni almeno decennali, a me accade invece di avere nel telefonino, che è molto peggio che avere dei morti, avere ancora i telefoni di persone detestate che magari vorrei vedere morte, ma ogni volta che mi si riallinea, io le cancello quelle perché non voglio che scompaiano, ogni volta che il telefonino mi si riallinea con Outlook del computer o qualsiasi altro tipo di agenda elettronica, mi riappaiono come se fossero dei cadaveri galleggianti che rivengono in superficie, tutti gli ex colleghi, tutte le ex fidanzate, tutte le ex persone detestabili ho conosciuto della vita. E questo mi spaventa ancora di più, Gianfranco. È morto Gianfranco, non ci è andato. Bene, allora andiamo avanti tranquillamente con la nostra trasmissione 800 24 00 24, più un telefono, un cellulare personale acceso di fronte a un microfono che è come un punto interrogativo, una sfida al mondo, e andiamo avanti con quelle che possono essere alcune indicazioni che qualcuno ha fatto, ma visto che sono in tanti a creare delle manualistiche di uso o di abuso, naturalmente, di questa meravigliosa protesi emozionale, per un uso molto particolare del proprio telefono. SMS da rimorchio. Primo esempio. Se pensate di invitare una donna che vi piace scrivendo questo SMS... Ciao Francesca, come stai? Cosa hai fatto di bello ieri? Vieni a bere un aperitivo domani? Ti va se ti passo a prendere? Smack, Marco. Avete sbagliato. Una sequenza incalzante di domande, l'inquisizione su fatti che ancora non vi riguardano, l'invadente proposta di un passaggio, un saluto improbabile alla Topolino. L'autore di questo SMS con ogni probabilità non andrà a bere l'aperitivo. Mai troppe domande di seguito. Sempre meglio avere qualcosa da raccontare e non solo da chiedere. Paolo Picchieri, giornalista, autore del libro Maledetto telefonino, piccolo galateo dell'uso e dell'abuso del cellulare, Morellini Editore. Picchieri, buongiorno. Buongiorno. Hai sentito la necessità di dare anche tu una regola rispetto alle possibilità infinite di usare il telefonino come strumento di infiltrazione nell'emotività del proprio prossimo? Sì, ho sentito questa necessità quando ho pensato che se noi prendiamo un gruppo di 10 persone oppure una folla, ci sono più telefonini che mutande. È una cosa così... Più telefonini che mutande, beh, lo trovo meraviglioso, il telefonino aiuta a scoprire anche questo particolare intimo e sconvolgente. Senti Picchieri, devo dare la linea alle informazioni della borsa, ti ho presentato, ci sentiamo tra un istante, avremo da te delle importantissime rivelazioni e indicazioni di come usare nella più proficua delle maniere il rapporto tra telefonino e mutanda. Melog 2.0. SMS da rimorchio, secondo invito. Ciao Francesca, ti va di rivederci? Andiamo al cinema domani? Ti invito. A che ora puoi? Bacio, Marco. Troppe domande. Subito il dilemma. Decidi per me o contro di me. E poi il cinema è troppo vago. Meglio dire il titolo di uno o due film, possibilmente di genere diverso, per non dare l'idea che ti va bene tutto pur di stare con lei. Sull'ora bisogna contrattare un po'. Se concludi con bacio, vuol dire che annunci il tentativo di baciarla, la stai mettendo troppo alle strette. Allora meglio scrivere semplicemente «Ciao Francesca, cinema domani?» 800 24 00 24, questo è uno dei consigli che dà Paolo Picchieri, che è autore di Maledetto telefonino, piccolo galateo sull'uso e l'abuso del cellulare, Morellini Editore. Allora Paolo Picchieri, su cosa basi questo tuo galateo del telefonino? Un uso folle e disperato personale o hai raccolto testimonianze da grandi frequentatori della seduzione via SMS? ho pensato che dopo un po' di tempo il cambiamento che aveva portato nella nostra vita il telefonino era stato un po' sottovalutato e che i tempi fossero maturi per fissare qualche regola, e questa è la principale preoccupazione del libricino, fissare qualche regola di comportamento. E intorno a questo però ho ricamato anche qualche aspetto più faceto, anche qualche curiosità legata alla seduzione per esempio, ma anche dei consigli su cose da non fare, per esempio, non so, i messaggi seriali, non so se hai mai ricevuto un messaggio a Natale che è stato mandato ad altre 100 persone. Sì, terrificante, infatti, arrivano, cominciano ad arrivare verso all'inizio, dalle 10 di sera circa, cominciano ad arrivare con le stelline, con il Buon Natale, con le frasi importanti, con le citazioni, sono stucchevoli, se non è personalizzato li cancello subito. Infatti li detesto, e questi sono un po' dei motivi che mi hanno portato a scrivere questo libro e cercare di identificare un po' qualche regola di una cosa che sicuramente epistemologicamente non molto gratificante, ma credo qualcosa che sia sempre utile da cercare. La buona educazione è qualcosa da recuperare, secondo me. Mi è capitato tante volte al ristorante, per esempio, di vedere persone che mettevano il cellulare sul mio tovagliolo. Oppure che schifo, con tutti gli sputazzi puzzolenti del loro fiato marcito mentre tu mangi, una cosa schifosa. Oppure a teatro tante volte ti capita che squilla il cellulare. Mi è capitato una volta di sentire anche degli attori che hanno fermato lo spettacolo. Ma hanno fatto bene, minimo. Ma molte volte la cosa che io vedo al cinema è le luci azzurrine al cellulare. Vedo signore indaffaratissime a scambiarsi sms durante il film. Ora io capisco che ognuno ha diritto di avere una vita relazionale intensa, ma che uno non possa staccare un'ora dalle sue relazioni e sia così frenetico. Altrettanto le vedo la mattina nella metropolitana. Allora, a Roma la metropolitana, a differenza di Milano, non prende linea telefonica, se non nel piccolo pertugio fra Lepanto e Flaminio. In quel momento è uno scatenarsi di suonerie, di trilli, di lanci, di invii, ma durerà 3 secondi, 4 secondi, e poi si rientra nuovamente nel blackout. Sentiamo qualche ascoltatrice. Ilaria, buongiorno. Buongiorno. Finalmente le donne si sono aperte, perché temevo che non appalesassero questa loro meravigliosa maniera di rendersi disponibili e nascondersi attraverso il telefono. Bella introduzione, spero di essere all'altezza. Lei sarà sempre all'altezza di ogni introduzione, vada avanti. Allora, guardi, intanto volevo dire qualche cosa riguardo a questa cosa degli sms e anche un po' all'intervento dell'ascoltatore precedente che dice che l'sms massacra la lingua. Nella mia particolare esperienza le messe massacra la lingua da rosicamento a chi non li riceve, chi non ha persone da mandarli. No, ma soprattutto nella mia esperienza l'SMS è un esercizio di haiku. Cioè io sento che questo spazio ridotto è come se mi invitasse a scrivere delle piccole poesie. Sì, ma l'ho citato prima, infatti le cure è la, secondo me, la forma poetica più calzante rispetto all'esacintametro che è il 160 battute del telefonino. Esattamente, e io ho una particolare attenzione alla correttezza della lingua, quindi nei miei sms cerco sempre di essere corretta, di non mettere abbreviazioni, piuttosto riduco, e questo è un bel esercizio di sintesi, cioè mi invita a cercare di dire quello che voglio dire in forma un po' poetica e soprattutto sintetica. Sì, lei, una cosa giusta sta dicendo Ilaria, c'è un'evoluzione della lingua anche nel linguaggio sincopato degli sms. Oggi chi usa le abbreviazioni o chi mette K è come se parlasse una sorta di arcaico dialetto da suburra, non ha più senso, viene da ridere, una persona ti manda un sms con le abbreviazioni ma nemmeno rispondi, lo cancelli subito. Esattamente. Senti, poi l'ultima cosa che volevo dire è, beh, io sono, diciamo, in certe cose sono ancora un pochino vecchio stile, nel senso che io conservo le mie agendine, quelle di cui lei ha parlato, non solo, ma io accanto al telefonino continuo a redigere agendine perché penso, non si sa mai, salta tutto, la memoria del telefonino parte. Beh, si può fare un backup quotidiano salvandola in un computer, la memoria. Ha ragione, ma io in questo ho ancora bisogno della penna. Senta, io invece gli sms li cancello o li conservo? Perché è importante. Allora, guardi, ultimamente li cancello. Prima ero più feticista. Se li cancella è buon segno, vuol dire che non li vuol far leggere a qualcuno. Ma più che altro è un po' come... È distante, è arrivato... va bene che ritorni da dove è venuto, nel senso che sto un po' abbandonando questa cosa del voler fermare, del feticismo, del... Così, insomma, non... Sento che... E adesso, visto che il rapporto parliamo naturalmente per metafore piacevoli, del nostro ospite fra telefonino e capacità di smutandamento era molto stretta. Lei si è mai sentita smutandata da un SMS? Perché qualcuno l'ha visto? No, nel senso, è una metafora per dire sensorialmente senza difese, sedotta nella sua viscerale femminilità. Assolutamente sì, però posso dire è un gran piacevole questa cosa, cioè è l'aspetto bello secondo me dell'uso del telefonino, cioè quando mi arriva un piccolo haiku che mi smutanda non è niente male. Grazie Ilaria. Paola, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Quante volte ti sei stata smutandata da un SMS? Qualcuna. Quindi accade, è inutile negarlo. No, perché tutti fanno gli ipocriti, tutti fanno finta che sia qualcosa che corrisponde, che ne so, a un'email di lavoro, ma no, che vuoi che sia. Tutti sappiamo questo oggettino che abbiamo in mano e soprattutto vediamo in mano alle nostre persone più care. E quindi questo ci crea qualche apprensione, qualche palpitazione. È uno strumento di radicale e profondo smutandamento. Sei rimasta senza parole, prego. Sì, perché io volevo dire tutta un'altra cosa, non mi ero preparata sull'argomento, però... Vabbè, visto che eri già pronta comunque, sì, spontaneamente. Sì, ero già pronta, sì. Allora, cosa invece volevi dire sull'SMS? Volevo dire, io uso il cellulare dal 97, da quando, penso i primi, perché avevo un mattone veramente incredibile. Il primo Motorola mattone, me lo ricordo. Il Motorola, sì. E l'ho sempre usato perché io lavorando con la campagna, affitto case di campagna, quindi in su e in giù, col cellulare abbiamo eliminato tanti viaggi, perché andavo magari a 20 km, dopo mezz'ora ci dovevo ritornare, invece con il cellulare è stato molto utile. Quindi ancora, siccome ce n'erano pochi di numeri, non c'era questa possibilità malandrina dell'uso del cellulare, era uno strumento puramente di lavoro, io me lo ricordo. Sì. Solo che da un certo punto ce l'hanno avuto tutti, quindi... Ogni cellulare corrispondeva a un essere umano potenzialmente e quindi è cambiato l'uso. Sì, è cambiato anche se poi nel mio lavoro sta diventando sempre più utile, perché io lavoro molto con l'estero e con i miei clienti che sono poi qui in Italia comunichiamo via SMS, perché le telefonate a cellulari tedeschi o danesi o olandesi mi costerebbero una fortuna. E quindi loro comunicano. Cioè adesso ti stai giustificando perché ti sei lasciata andare sullo smutandamento, vuoi dire che ce l'hai perché ti serve per lavorare? No, sì, però poi io quando ricevo un messaggio a questo punto sono talmente non ne posso più che lo lascio nella borsa, poi sì, bello, leggerò. Ieri è successa una cosa bellissima. Era su Vereto alla Sagra del Cinghiale con il mio compagno, mi sono allontanata un attimo da lui, ho ricevuto un messaggio e ho detto vabbè, poi lo leggerò, insomma l'ho letto dopo un paio d'ore. E tanto lui sta lì a mangiarsi le salsicce e il cinghiale in umido, c'era cioè un'altra era preoccupazione. Lui che mi scriveva ti amo. Un'altra persona, è giusto. Quindi, pensa al cinghiale, chi pensa alla cinghialessa, quindi ognuno c'ha il suo problema. Buona giornata Paola. Paolo Pinchieri, abbiamo sentito nelle testimonianze di queste ultime ascoltatrici che in realtà esiste un uso pubblico e un uso privato del cellulare. Quello pubblico è quello più facilmente reclamizzato dalla società telefonica, e quello privato è quello che ognuno sa qual è la vera forza di questo prolungamento della nostra emozione. È una cosa così importante. Io penso... Guarda caso dei messaggi che vengono inviati di notte. Hai mai pensato che quando una persona ti manda un messaggio di notte potrebbe anche svegliarti? No, io ho tolto per questo la segreteria perché accadde già una volta e mi creò dei grossi problemi in famiglia. Quindi il mio telefono è muto quando arrivano messaggi. Ne stanno arrivando anche adesso, infatti nessuno se ne sta accorgendo. Ci sono tantissimi. Tu hai messo, scusami, nel tuo manuale che è buona regola non mettere l'avvisatore acustico dell'SMS? E l'avvisatore acustico delle... Sì, c'è questa regola. Basilare questa, ma nemmeno la vibrazione, perché improvvisamente, non so, uno sta tranquillamente seduto a tavola, bambini, nonne, zie, suocere, si vede questo attrezzo comincia a muoversi, a vibrare, tutti dicono, beh, guarda chi è. E non sempre, come la nostra amica cinghialessa, non è sempre il momento giusto di vedere un messaggio che può emozionarci. Uno tradirebbe un'emozione. Ma a proposito di questo, pensa quante volte ti sei trovato per esempio nello scompartimento di un treno oppure in macchina con qualcuno e questa persona sta rispondendo a una telefonata privatissima, quindi sta discutendo di un fatto per esempio sentimentale e tu sei là costretto a sentire questa telefonata. Cioè, adesso poi che gli scompartimenti sono aperti è un intero vagone che sente di solito. È una cosa assolutamente drammatica. E poi c'è anche un'altra questione, io penso... quante persone, a quanti rapporti di coppia sono entrati in crisi perché il coniuge oppure il fidanzato o la fidanzata ha sbirciato nel telefonino del compagno. È sì, una cosa da non fare mai, perché adesso lo dico, è giusto, se uno guarda il cellulare della moglie, della fidanzata, del marito, del fidanzato, è chiaro, scopre tutti gli altarini possibili, ma c'è anche un livello di ambiguità che noi possiamo anche tollerare per noi stessi, perché non dovremmo tollerarlo per gli altri. Se uno guardasse il mio cellulare troverebbe tantissimi messaggi magari fatti da amici, da amiche, che letti senza sapere il rapporto c'è con questa persona, senza sapere il contesto, potrebbero anche sembrare ambigui. Sappiate che il vero messaggio SMS portatore di adulterio semplicemente potrebbe essere alle 5 al solito posto, e lì si potrebbe aprire di tutto. Interessante quello che mi scrive su Facebook Anna Maria. Mi dice: quando la memoria del telefonino si riempie, lei li trascrive, dice, ma quando li vedo trascritti, gli SMS naturalmente, in parte perdono il fascino di essere letti sul piccolo schermo luminoso del cellulare. Fotocopie sbiadite di emozioni a forti tinte. È vero, il sistema di backup del mio telefonino mi riporta tutti gli SMS anche sul computer, ma vederli scritti lì è un'altra cosa. In effetti l'SMS dà il massimo del suo potere emotivo ristretto nei margini del display di un telefonino, sia un palmare sia un piccolo cellulare. Comunque, deve essere ristretto, deve mantenere questo aspetto di intimità, di frequentazione, deve essere composto con gli a capo determinati dalla angustia di quel piccolo schermo. Sasha, buongiorno. Buongiorno. Lei è un feticista dell'SMS? Assolutamente sì. Quanti ne ha memorizzati? Ma ne ho memorizzati più di un migliaio, e ogni volta quando arrivo, diciamo, al limite della memoria del telefono è un dramma, perché non so più quale cancellare, quale tenere, quale... Io, per dire, anche... Guardi, non voglio fare il fighetto che sa le cose di computer, ma a pochi euro vendono anche delle piccole chiavettine dove mette dentro la sua SIM e li può trasferire comunque, così se li tiene tutti. No, infatti io, per dire, adesso con il nuovo telefono che ho ne riesco a tenere molti di più, li salvo sul computer nel caso, non so, succede qualcosa col... È un orgio di SMS, faccio, cioè... il backup, perché è importantissimo non perderli. Però mi ricordo, anche come ho sentito prima, del messaggio che aveva letto su Facebook, di riscriverli, e a me era successo, perché per me cancellarlo significava cancellare qualcosa di me. Infatti io faccio anche fatica a buttare degli oggetti così. I messaggi è la stessa cosa, non riesco, sono troppo legato, ma anche a cose stupide, scritto, che ne so, arrivo fra 10 minuti e lo tengo. Bisogna vedere chi è la persona che arriva e cosa è accaduto, certo, dopo quei 10 minuti, è chiaro. È vero, però tutte queste cose banali. E quindi sono delle piccole boe che segnano il ricordo nel percorso emotivo della nostra vita, altrimenti non l'avremmo, perché cosa ci portiamo dietro? L'SMS, soprattutto perché è taggato di data, di circostanza, sappiamo che a quell'ora di quel giorno aspettavamo una persona dopo 10 minuti, e sappiamo cosa è accaduto dopo o cosa non è accaduto. Quindi è importante questa segnatura dei percorsi esistenziali, e questo in fondo il telefono dimostra che è qualcosa di più di un oggetto, è veramente un prolungamento, una periferica di accrescimento del nostro hard disk organico. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Vuole anche lei parlare dello smutandamento oppure di altre cose? No, era dello smutandamento. Allora prego, prego. No, si figuri, è gradito di mattina, si figuri. Allora, quanto è stata smutandata da SMS? Parecchio. Direi, infatti, come dicevo prima, tutto quello che esula, secondo me, dal lavoro, quindi gli SMS di lavoro... Smutanda. Senta una cosa, mi aiuta a ricordare, ma come si faceva a smutandare prima che esistesse l'SMS? O ci si smutanda più adesso? Secondo me ci si smutanda più adesso. E prima, non me lo ricordo più, perché io sono, come dire, nuova a queste esperienze, non mi ricordo prima come si faceva, se lo ricorda lei? No, io ho cancellato la memoria, mi sembra impossibile, avevamo un periodo di profonda castità e limitatezza di emozioni, poi sto parlando di emozioni, non di atti pratici, però lo smutandamento emozionale adesso è immediato. Una volta, per smutandare una persona bisognava parlarla, frequentarla, perdere lungo tempo, andarci a pranzo fuori, a cena fuori, lunghi pomeriggi di passeggiate. Oggi si smutanda in 30 secondi. Sì, in 30, 60, ma non si supera il minuto, è vero. Se è superata la barriera mi è successo anche per motivi di lavoro, che si è passati da un SM pratico di lavoro a degli smutandamenti. Sì, ma infatti è facile, perché dunque uno sì. in un rapporto di lavoro conosce un collega, una collega sì. per motivi di lavoro, dice ci scambiamo i telefoni, e quindi è già come dare la chiave del lucchetto delle mutande, diciamo la verità, però uno può usarla e non usarla. Esatto. Poi uno manda il primo SMS, ci vediamo a quel meeting, e ci aggiunge tre puntini, fine, è già smutandata. Perché l'aggiunta dei tre puntini presuppone il proseguimento di un rapporto. Già arrivano al ginocchio, diciamo. Ma non lo so, insomma, comunque sì, ecco, è proprio l'uso, secondo me l'uso dei puntini, delle pause, che distingue un SMS, che può essere un banale SMS di lavoro, da qualcosa che può diventare da qualcos'altro. Quindi abbiamo trovato un nuovo strumento in un momento in cui tutti dicevano che hanno perdute le emozioni, le capacità non di conoscere. Non è vero, secondo me è proprio... Quindi la tecnologia ci ha aiutato ad essere ancora più umani e conoscere profondamente alcune potenzialità della nostra umanità. La ringrazio Francesca, la lascio che stiamo concludendo, ma la terrei al telefono ore e ore, data la sua facilità a essere smutata andata da SMS. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, io volevo raccontare un pochino la mia esperienza, nel senso che mi sono ritrovato in molte cose belle e brutte che avete detto stamattina. Sono stato in passato un fruitore del telefonino accanito, mi ricordo con emozione quando ho comprato il mio primo microtac e poi tanti altri telefoni, sportellini che si aprivano, cose... E ora? E oggi? Che uso ne fa? Oggi sono arrivato a privarmi di questo uso. Quindi è arrivato a una sorta di volontaria pace dei sensi telematici, quindi tranquillamente ha staccato il suo telefono, visto che non ha più interesse a prolungare la sua emotività, e probabilmente anche lo smutandamento di cui parliamo è una pratica che ormai uno ha sublimato. Marco Paolo Picchieri, scusami, in conclusione, tu hai tracciato alcune tipologie di frequentatori del telefonino, quanto le rivedi nei nostri ascoltatori e ascoltatrici che hai sentito finora? Ma devo dire che sento tante persone che fanno parte della categoria credo che siano le persone eleganti, cioè delle persone che non fanno mai vedere il loro telefonino. Io spero che tra questi non ci sia nessun caffone, nessuno di quelli, come ho detto prima, che lascia il telefonino sul tavolo del ristorante. Però la figura che mi affascina di più, ti dirò, che è quella di chi non ha il telefonino, di chi ancora resiste senza. Ma di solito queste sono persone che hanno qualcuno che cura gli affari per loro, oppure sono degli anticonformisti assolutamente straordinari. O dei monaci stiliti che ancora hanno questa necessità di macerazione e contenzione dei propri sensi, visto che abbiamo capito che non è soltanto uno strumento tecnologico, apparentemente uno strumento tecnologico, ma non avrebbe avuto tanta fortuna il telefono cellulare se non fosse un'interfaccia diretta con le nostre emozioni. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.